modulatore si chiama Sberla. Ho capito. Era una portante. Era bellina però. Bellina sì. Lo considereremo come un codardo. il benvenuto. Ok, ha fatto. La perna chiesa. Attenzione, attenzione al canale 10. Attenzione al canale 10. Oh, dimmi, Anto. Ma però mi controllo un attimino. Prova. Prova? Ehi, sempre no, sì. Ok, scusami, a dopo, dai, ciao.